English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Abbiamo scoperto la scorsa settimana Bill Hicks, uno straordinario e scorrettissimo comico americano. E siccome ci siamo avviate per questa china pericolosissima degli stand-up comedians, di questi monologhisti americani molto scorretti e pieni di parolacce, ci siamo divertite e andiamo avanti così. Ne scopriamo un altro. Giulia, a te è piaciuto particolarmente, me l'hai segnalato tu. Chi è questo personaggio straordinario? George Carlin, che anche lui purtroppo morto qualche anno fa, e anche lui fa parte di quel gruppo di comici da cui Daniele Luttazzi ha, lo possiamo dire perché è inutile usare il condizionale, ha copiato, non avrebbe copiato. Voi potete vederlo tranquillamente in rete, questi sono monologhi molto divertenti, pronunciati molti anni prima che lo facesse Luttazzi, che lui ha egregiamente tradotto, ma di fatto tradotto, e noi invece vi proponiamo l'originale. Anzi, io andrei subito a sentire così a bomba un pezzo un po' controverso di George Carlin. Perché chi tira in ballo? Beh, addirittura Dio. Cominciamo così, proprio puntiamo in alto. But let me ask you this. When they were sitting around making this shit up, why did they pick 10? Why 10? Why not 9 or 11? I'll tell you why. Because 10 sounds official. 10 sounds important. They knew if it was 11, people wouldn't take it seriously. So what, are you kidding me? The 11 commandments? Get the fuck out of here. But 10... 10 sounds important. 10 is the basis for the decimal system. It's a decade. It's a psychologically satisfying number. The top 10, the 10 most wanted, the 10 best dressed. So having 10 commandments was really a marketing decision. And to me, it's clearly a bullshit list. It's a political document artificially inflated to sell better. Abbiamo sentito che parlava dei 10 comandamenti con un sacco di F-words, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, una parolina che non traduciamo ma che si trova spessissimo in questi monologhi, ma la troviamo anche nel cinema, la conosciamo bene. E beh, certo, spietato, scorrettissimo parlare dei 10 comandamenti in questi termini. Immagina questo consesso di persone sitting around, phrasal verb, quindi not just sitting, but sitting around, che dà l'idea magari appunto di persone che si mettono intorno a un tavolo, e they are making this shit up. Ecco, shit, lo sapete cosa vuol dire? Diciamo, chiamiamola la S-word, quindi mentre preparavano questa lista che poi diventa la nostra straconosciuta lista dei 10 comandamenti. Why did they pick 10? Ma perché hanno scelto to pick? Vuol dire proprio scegliere, tirar fuori. Perché 10? Why not 9? Why not 11? Perché proprio 10? E lui dice, certo, 10 sounds official, suona ufficiale, importante, ma soprattutto 11 non li avrebbe presi sul serio nessuno, no, secondo George Carlin. Persone, people wouldn't take it seriously, quindi no, qui abbiamo il famoso condizionale, wouldn't take, non li avrebbero presi seriamente, anzi avrebbero chiesto, are you kidding me? To kid somebody vuol dire prendere in giro, e appunto si può usare in modo transitivo, quindi I'm kidding you, ti sto prendendo in giro, però anche io ti posso chiedere, are you kidding me? Mi stai prendendo in giro, mi dai 11 comandamenti, o forse peggio ancora, 9 comandamenti. Get the F out of here, che è un modo sempre molto colorato, e davvero questa F word tradotta letteralmente non è certo bella, però è molto molto colloquiale, insomma lo sappiamo, non è poi così volgare come può sembrare se usata magari in modo insomma divertente come fa Carlin. It's a psychologically satisfying number, e questa è straordinariamente cattiva. È bello perché insomma questi comici hanno poi un uso della lingua che secondo me è sempre straordinario, si inventano un po', no, queste espressioni, un numero psicologicamente soddisfacente, e quindi la conclusione è che having 10 commandments was actually a marketing decision. George Carlin è cattivissimo perché dice che è un political document, cioè un documento politico, addirittura una cosa di marketing per vendere di più. E qui abbiamo artificially inflated, o naturalmente l'inflation, lo sappiamo tutti che cos'è l'inflazione, e però to inflate in inglese letteralmente vuol dire gonfiare anche un pallone. Quindi questo documento è un documento politico artificially inflated to sell better, come dove deve fare una qualsiasi marketing decision saggia, deve riuscire a far questo, a far vendere meglio le cose. Ma se era così spietato coi 10 comandamenti, cosa avrebbe detto George Carlin di questi esseri innocenti che sono i gattini? Cats are all different. They do everything different than a doggy. Cats are cute. Cats are goddamn cute. That's how cute they are. They needed two names. Kitty wasn't cute enough. Kitty cat. Isn't he cute? The kitty cat. Look at him. Isn't he cute? Let's drown him. You little goddamn kitty cat. Ain't he lovely? stick him on the wall, see if he hangs up there. Whoa! Linda Teeny, I hope he stays that size forever. He's darling. Isn't he wonderful? Cute little goddamn kitty cat. They can jump any way they want. When they're teeny, they can jump straight up in the air without a run. They just go, floom. They can even jump backwards to the side. Floom. How'd he do that? Holy shit, they can do anything. Jump and be cute as can be. Cute a goddamn kitty cat. Isn't he cute? God, I love him. They're so cute. They're even cute when they kill. Isn't he lucky he's playing with the mouse? Bullshit. Mouse doesn't feel that way. Eccolo qua, George Carlin, sui gatti, i gattini. Secondo me non è facilissimo da capire perché parla in maniera molto veloce, però è davvero divertente, lo è. Sì, poi qui usa il tipico diminutivo, no? Sapete che in inglese quando si vuol fare un diminutivo si raddoppia la consonante e si aggiunge una Y, quindi un cagnetto è un doggy, dog, doggy, mentre un gatto da kit è diventa, o può essere kitten o kitty. E lui dice cats are cute, cute naturalmente è carino, anzi cats are goddamn cute. E qui abbiamo un altro intercalare, goddamn è letteralmente è tanto che Dio li maledica, ma semplicemente possiamo dire maledettamente carini. E qui fa una cosa molto intelligente, perché ha ragione George Carlin, cioè si trovano queste foto anche chiccissime di piccoli gatti carini, tutti carini, i gatti sono tanto carini, e poi si scopre però che sui gatti piccoli si commettono le peggiori crudeltà del mondo. Quindi, da una parte, Kitty wasn't even cute enough, quindi questo diminutivo non era neanche abbastanza carino, tant'è che a volte gli americani li chiamano kitty cat, fanno un doppio diminutivo, però... Però fanno anche delle cose orrende. E qui naturalmente guardatevelo su internet, era un George Carlin giovanissimo che dice sì sì, prima mima appunto tutti questi versetti che fanno, questi vezzeggiativi che fanno a volte le persone, io sono una gattara tremenda e sono perfettamente d'accordo con lui, cioè si fanno tutte queste scene e poi let's drown him, e quindi già che ci siamo affoghiamolo, to drown, affogarlo. Sapete che una delle cose crudelissime che si fanno ai gatti piccoli è per esempio di affogarli, o peggio, ci sono cose documentate purtroppo, stick them on the wall, cioè fare il lancio del gattino contro i muri. Ecco, queste sono le cose che si fanno ai kitty cat, che da una parte vengono adorati e dall'altra vengono torturati spesso. Però diciamolo, anche i kitty cat sono un po' cattivi talvolta, eh? No, kitty cat sono essere anche when they are teeny, quando sono piccolissimi. Teeny si può dire, qui dipende, perché a volte si pensa che gli inglesi dicano teeny e gli americani tiny. In realtà anche agli americani, George Carlin americano, dicono a volte teeny. Comunque vuol dire piccolo piccolo, e lui dice, scherzando, anche questo è vero, they are even cute when they kill. Sono cute anche when they kill, quindi quando ammazzano, perché diciamo che col gattino ci giocano. Playing with a mouse. E lui risponde bullshit, cioè no, anche qui una bella S-word, anche la S-word del toro. Mouse doesn't feel that way, ovviamente al povero topo, che spesso non è un topo giocattolo ma è un topo vero, non gli sembra esattamente che sia un cute little cat che gioca con lui, perché di fatto un gioco non è. Ne ha avuto abbastanza anche per i gatti, e come non parlare male invece degli automobilisti. George Carlin anche qui era spietato. And as long as we're talking about things that belong on the back of the car, things that are there to be read, let's check our bumper stickers before we go out driving. Let's make sure we have enough bumper stickers on the car. You wouldn't want to get out in traffic and not have some reading material for the other drivers. What on earth would people ever do at the red lights if it weren't for my handy rear bumper mobile library service? And I have so many, I always have to check to see which ones are current. Let's see what I have on here today. Ooh, kind of an intellectual bumper sticker. Honk if your horn is broken. That ought to hold the average American for about a mile and a half. Here's a spiritual one. I've found him. I have Jesus in the trunk. What else do we see on the backs of these cars? I love my German Shepherd. I love your wife. E se nelle prime due era un po' estremo, sulla religione, in particolare sui 10 comandamenti e sui gattini, io qua però devo dargli ragione al 100%, perché se la prende in particolare con una cosa, che sono i bumper stickers. Che cosa sono, Giulia? Questo è proprio una possiamo dire, insomma, un'americanata, sono quegli adesivi, stickers, to stick, attaccare, quindi sticker è l'adesivo, che gli americani, per i quali gli americani impazziscono, cioè li hanno inventati loro insieme forse ai magnets per i frigoriferi, e in qualsiasi negozio andiate, di souvenir, ma in realtà in qualsiasi negozio voi li potete acquistare. Sono questi adesivi che gli americani si divertono a attaccare sul back of their cars, cioè in generale almeno appunto sul paraurti dietro, sui finestrini dietro, a volte vicino alla targa. Poi sappiamo che anche le targhe americane sono molto bizzarre. Insomma, è come se appunto la macchina diventasse un po' una lavagna per far capire quali sono i pensieri fissi del suo proprietario. Beh, un po' come quando noi troviamo scritto bebè a bordo e io mi arrabbio perché dico: non è perché tu hai un bebè a bordo che io non ti tampono, non lo farei comunque. Infatti, things that are there to be read sono cose che vengono messe lì proprio perché la gente le legga. Quindi lui dice: let's check out our bumper stickers, quindi to check out, vediamoli, cioè parliamone per favore di questa cosa di cui lui evidentemente si vergogna un po' come americano, perché lui dice: before we go out driving, evidentemente c'è qualcuno che pensa: ma i miei bumper stickers sono lì, sì, perché sono parte importante, quindi you wouldn't want to go out in the traffic, quindi non vorresti gettarti fuori nel traffico without providing reading material for the other drivers. Qui naturalmente appunto è sempre questo modo diciamo anche forbito di dire una cosa molto sciocca. È chiaro che non è reading material un bumper stickers con tre parole, però è come appunto se tu dicessi: ti fornisco io gli stimoli intellettuali per la tua crescita davanti alle mentre sei lì che guidi. Ma non solo intellettuali, anche spirituali, secondo lui. Sì, poi dice che appunto ce n'è di tutti i tipi, no? Ce n'è di volgarissimi, e poi ce n'è anche here's a spiritual one, e c'è questo che appunto è un bumper sticker con scritto I found him, e naturalmente è ho trovato Dio. E allora George Carlin pensa dentro di sé: ma che cosa vorrà dire? Che I had Jesus in the trunk, cioè che Gesù si era nascosto nel mio bagagliaio e io non me ne ero nemmeno accorto. Ecco, questo è sempre appunto George che fa sempre da interprete della follia americana e poi la legge e poi la reinterpreta. C'è neanche uno che ha a che fare con il clacson. Ecco, sì, quello appunto è quello un po' volgare. Honk if your horn is broken, quindi suona, to honk vuol dire suona, e se le tue corna sono rotte. Qui le corna, le corna naturalmente quelle del cornuto. Horn, corno, ma anche il horn che si suona, quindi, esatto. Quindi clacson. What else do we see? Ne vediamo anche altri, ne cita alla fine proprio dell'estratto uno che a me ha fatto molto ridere, poi mi fa molto ridere come lo dice. Sì, perché poi appunto qui vi consigliamo davvero di vedervelo anche su YouTube, e naturalmente c'è tutta la varietà. Prima abbiamo parlato di gatti, e gli amanti dei cani amano dirlo chiaramente che loro amano i cani, quindi per esempio I love my German Shepherd, che è la traduzione letterale di pastore tedesco, quindi, e allora George Carlin sempre per esempio gli risponderebbe se fosse il driver dietro: ah sì, beh invece a me I love your wife, invece io adoro tua moglie. Era straordinario George Carlin, davvero divertente, però il nostro tempo a disposizione finisce qui, quindi magari qualcuno andrà a recuperarselo in rete, ma qualcun altro andrà in edicola a cercare il nostro English 24 che vi tiene sempre compagnia. Io devo ringraziare Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Un saluto e alla prossima puntata.